L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voglio dire solo una cosa, Parenzo, cosa bisogna fare secondo voi? Lo chiedo anche al popolo della radio, al popolo della zanzara, cosa bisogna fare a un funzionario dello Stato? Uno che è il magistrato delle acque, lasciamo perdere i magistrati delle acque, il quale dice tranquillamente in un verbale, che è una specie di confessione davanti ai magistrati, il signor, com'è che si chiama questo qua? Patrizio Cuccioletta. Tenetelo bene in testa, amici, Patrizio Cuccioletta, il quale dice: il Mose mi pagava lo stipendio e anche il TFR. Da Mazzacurati, che è quello che distribuiva favori e mazzette a gogo in tutti questi anni, caro Parenzo, ho preso 200.000 euro all'anno. Poi altri 500.000 quando sono andato in pensione. Poi dice, però io mi sentivo comunque indipendente, capito? Ora io dico una cosa, questo tizio che si chiama Patrizio Cuccioletta sarà anche in pensione, ma perché non viene cacciato seduta stante dallo Stato? Cioè, seduta stante, uno così dovrebbe essere preso domanda a legittima sedere. Cioè, licenziato in tronco. Poi magari piglierà pure la pensione da magistrato, non lo so. Io mi chiedo questo. Oggi mi chiedo questo. Intanto Grillo insegue incredibilmente Renzi, come cambiano le cose, da quello streaming in cui si è alzato. E sei gatto e un giorno sei topo, amico mio. Bravo, un non è male questa cosa. Quando questo è l'aforisma del giorno. Quando ci hai pensato a questa 30 cosa? 30 secondi fa. Bah, mentre ascoltavo il programma del signor Barisoni, che io sto trasmettendo qui, era seduto pochi istanti fa, il signor Barisoni, il quale mi ha ricordato, scusami l'inciso. No, prego. Mi ha detto, scusami, perché ogni volta tu e quell'altro, io aggiungo imbecille, lui non ha detto così, però il senso era quello. Ogni volta dite telefonate da Barisoni. Non ci sono le telefonate da signor Barisoni, lui dice e ricorda giustamente. Ma io uso la sua trasmissione come humus, quello che usano gli arabi, come humus, come terreno diverso, leggermente diverso dal nostro. Ecco. Allora, volevo dire tu l'hai buttata in metafora, che adesso Grillo insegue Renzi. Un giorno sei gatto, un giorno sei topo. Ma l'hai già detta questa cosa qua, adesso bella. Non ripetiamola più volte. Siccome è ben riuscita, va ridetta. Sì, ma ripetila tra un'oretta magari, no? Qualcuno si mette in collegamento tra un'ora e sente questo tuo aforismo. Un giorno sei gatto e un giorno sei topo. Vabbè, addirittura il signor Di Maio, che è tutto quel grillino precisino con la cravatta, no? Mentre Grillo manda a fare in culo le persone, Di Maio è la parte più istituzionale. Beh, è vicepresidente, che è prevalente in questo momento, no? La parte istituzionale non siamo riusciti a buttare giù il governo Renzi, dunque dobbiamo avere dei toni leggermente più pacati, eccetera eccetera. Il signor Di Maio dice: beh, questo traccheggiamento di Renzi, che nemmeno ci risponde, mi sembra scortese. Cioè, adesso c'è qualcuno nei 5 Stelle che parla di scortesia perché Renzi non risponde. Loro parlano, beh, un po' scortese. Ma come scortese? Gliene avete detto di tutti i colori e adesso dite che è scortese. Al minimo. Non mi fate difendere Renzi, che non voglio difenderlo, dai, su. Questo temporeggiamento e allo stesso tempo ignorare totalmente questa richiesta, dopo che ci hanno chiesto per tanto tempo di discutere della legge elettorale, ci sembra anche un tantino scortese. Un tantino scortese. Io vorrei ricordare a questo immenso popolo che ci segue in attesa del verbo pronunciato qui da personaggi, ospiti e anche da questi due cialtroni che conducono. Vorrei ricordare alcune frasi, anzi una, ricordiamone solo una, di Grillo, non cent'anni fa, qualche mese fa, nei confronti di Renzi. Arrivare a fare le cose, a dire le cose che dice e poi a non fare le cose che dice, ci vuole un odio moderato. Stanno distruggendo il paese in modo moderato. Questa gente non va combattuta, va eliminata come del cibo avariato, va mandata fuori. Il cibo avariato. E adesso Di Maio dice: beh, è scortese che non risponde, è scortese che ci fa aspettare. Vogliamo discutere di riforma elettorale noi? Oh. Beh, amici miei, no. Il problema è che non ci hanno risposto ancora, ormai sono passati oltre 4 giorni, ci facciano sapere che cosa vogliono fare. Vorrei solo precisare che noi vorremmo fare la legge elettorale del 2014, non quella del 2054. Adesso hanno fretta, capito? Adesso hanno fretta, i grillini vogliono discutere con Renzi di legge elettorale. Intanto, amico mio, si consuma... È come far sedere a un tavolo Attila. Cioè, voglio dire, ma ne parleremo, abbiamo tempo, come dicevi tu, non dire. Invitare a fare le riforme i grillini, invitarli al tavolo. È come ci dobbiamo dire: scusi signor Attila, dopo che ha devastato tutto, può venire un attimo qui a discutere con noi? Ma come cazzo? Ma fino a ieri volevi devastare tutto. Perché Attila lo inviti a cena? No, Attila non viene a cena, sta a casa sua, come dice a Milani. Oh, mi dispiace darti ragione su questo, ma è così. C'è invece la scissione dell'atomo. No, la scissione dell'atomo. No, non parlare di questa cosa. Perché qui, perché no? Perché tu prima dici, stavo venendo qui alla nulla, stazione Termini con la metropolitana. Tutte le persone ti fermavano, ti strattonavano e ti chiedono che fa. Parenzo! Gruciani, cosa succede in cell? Migliore se n'è andato. Chi ha detto? Gennaro Migliore è andato via, non è più capogruppo. Dramma in metropolitana, stazione Termini di Roma. È dramma. Sì, però ragazzi, riduciamo tutto all'essenza anche qui, sì. Riduciamo tutto alle cose però fondamentali. Ha ragione Migliore, ha ragione Gennaro. No, ha ragione Vendola, ma come? No, salite sul carro del vincitore, ha ragione Vendola, te lo dico che certamente non sono uno che dà ragione a Vendola. No, ha ragione Vendola. Ha ragione Gennaro Migliore. Vabbè, guarda. Comunque stiamo parlando dell'atomo, stiamo parlando del nulla, perché nessuno conosce queste cose. Però. Ma la cosa fondamentale è questa, che lasciate perdere i discorsi che vi faranno. Cioè, questi si dividono sul fatto se andare o no con quello che sembra. Che stai facendo? Scusami, scusa. Avevo un po' di raschiamento alla gola. Fatto no, ma fai, fallo ancora. Fai una. Faccio a comando. Sì, però. Sì, fallo come mia figlia. Vai, siamo vai. In onda? Vai, sì, certo. Vai, con l'acqua. I gargarismi di Parenzo. Ricordi sempre tu, questa è radio. Sì. La voce si deve sentire. I gargarismi di Parenzo. Avevo mal di gola, se non lo facevo dicevi perché tanto, non parli. Ma no, vi assicuro che non lo sapevo io, Vi assicuro che non lo sapevo. Allora, ennesima scissione a sinistra. Poi la sinistra estrema in particolare, sì. Proprio a scissioni, a iosa, Vi ricordate, sì, tutte le scissioni precedenti di Fondazione Comunista, Ferrero, eccetera, eccetera. Vendola dice: malattia italiana, andare in soccorso dei vincitori. Due parlamentari sono passati al PD, c'è questa attrazione verso il PD? Ma insomma è una malattia italiana quella del conformismo, e poi andare in soccorso ai vincitori, diciamo, dice molto della caratura politica e morale di chi lo fa. Qui si capiva però, stranamente questa volta Vendola si capiva. Allora, abbiamo molte cose da farvi ascoltare, però in collegamento dagli Stati Uniti, cari amici, dopo le frasi di Vladimir Luxuria di ieri, che l'ha definito un omofobo di sinistra perché è facile e comodo essere omofobi a sinistra, sì, fa notizia... Sì. Mario Dinolfi è con noi, buonasera, ciao Mario. Ale, buonasera, com'è facile, ha detto, no, ci credo, è facile. Sì, insomma. Sì, facile, ha no? Detto. Basta leggersi la mia timeline di Twitter tutti i giorni, dalla mattina alla sera, minuto per minuto. Insomma. Però ha detto che... valanghe di merda. Diciamo. Sì, da valanghe di merda. Ma cosa fa negli Stati Uniti il nostro amico Dinolfi? Ma è a Las Vegas, cosa vuoi che faccia, gioca a poker? Festeggio l'anniversario di matrimonio con mia moglie, io mi sono sposato a Las Vegas, sono qui con mia moglie, se volete ve la passo, grande No, momento. No, non importa, dai, grazie. Ma anche lei ha fatto... contro il matrimonio gay, anche tua moglie? Certo, lei è peggio di me. Lei è, cioè, è più omofoba di te. Lei è omofoba. Ah, lei è omofoba. Cioè, la moglie, annuncio urbi e torbi, la moglie di Mara Dinolfi è molto più omofoba di Adinolfi io stesso. Non sono omofobo. Vabbè, questo io lo dicono gli altri. Io subisco l'influenza, diciamo. Come subisci l'influenza degli omofobi? Di mia moglie, esatto, è l'influenza di mia moglie. Allora, Luxuria, Adinolfi, omofoba a sinistra, sentite. Ha trovato il mestiere pure lui, dai, ormai è dell'omofobo, dai, ormai è un po' un mestiere. Sì, ma sì, vendo un po' libri. Puoi fare l'omofobo da sinistra, capito? Anche un po' più, capito? Radical. Ha dato giustamente voce a una realtà che esiste, perché esiste, è inutile ce lo nascondiamo, di quella parte di omofobi che stanno pure a sinistra. E c'hanno pure loro la loro rappresentanza. Non me moleste moschi. Allora, Mario? Beh sì sì, no, ma non, a me non sta antipatico Luxuria, quindi tutto sommato una che ha fatto il mestiere tutta la vita, lo capisco che pensa che gli altri fanno il mestiere, non faccio il mestiere, faccio quello che ho sempre fatto, cioè platero su delle idee che fatto sono molto molto faticose e scomode. No, ma scusa una cosa, adesso tu dici non mi sta antipatico, hai detto che fa il mestiere tutta la vita, scusa, pensa se te stava antipatica. Se lui dice faccio il lavoro, cioè che lavoro è? Che prendere il tutti la mattina e la sera, che lavoro è? Il libro di solito non lo cito mai perché sono così, diciamo, elegante, che ho messo tutto il libro gratis su internet e evito di citarlo. No, ma viva la mamma, lo cito io, no, a questo punto. Voglio la mamma, sì, voglio la mamma, sì, voglio la mamma. No, però scusami un attimo, scusa, hai detto non voglio essere pesante, hai detto una che ha fatto il mestiere tutta la vita dice che faccio questo di mestiere. No, scusa, ma di travestito, non ha fatto il mestiere del travestito. Non è un travestito. No, ma hai detto un'altra cosa, dai, su, cioè... È il mestiere quello, insomma, cioè, non è che ha fatto di quel lavoro tutta la vita la carriera, io non è un problema, non è che... Però mi dispiace che mi voglia affibbiare questo come fosse un lavoro, questa è semplicemente un'idea. Posso dire qualche idea, posso dire che sono contro il matrimonio omosessuale senza essere tacciato di omofobo, di opportunista, che poi è... Aspetta, avvicina bene il microfono, se non si capisce niente, Mario. Meglio omofobo o opportunista, questa è la doppia accusa che mi dà Luxuria, insomma. Sì, poi dice anche un'altra cosa, che a sinistra, cioè, ti sei ricavato un piccolo spazio come omofobo di sinistra, dice questo, insomma, che... Si paga su quello spazio lì, si paga un prezzo enorme, io faccio 300 ore di televisione l'anno, sai quanti minuti mi hanno dato per presentare il mio libro in televisione? Neanche uno. Neanche vabbè, questa è uguale quando uno si presenta, in televisione, anche non presentando il libro, comunque è una pubblicità indiretta, non è quello il punto. Sì, dai. Ma non ti fanno parlare del libro, se tu vai a vabbè, perché non ci sono dibattiti sulle unioni gay tutti i giorni, d'accordo? Perché secondo te non è un tema importante quello? Ma figurati, io l'affronto sempre, figurati. È un caso che non ci sia un dibattito su questi temi in televisione. Ma adesso ci sarà, per esempio, tu hai annunciato una battaglia pazzesca sul fatto che Renzi vuole presentare un progetto di legge che assimila quasi totalmente, anzi totalmente, è stato detto esplicitamente, il matrimonio alle unioni gay, stessi diritti, stessi doveri. La zanzara capricciosa, la zanzara delle... Oh, c'è da precisare una cosa, Adinolfi, che... Ti sento, mi senti? Che Luxuria... Sì, sentiamo molto bene. Allora, che Luxuria ha detto anche che useranno le sagome di Putin e quella di Giovanardi per il tiro alle freccette. Tiro alle freccette. Ah, ma non c'è il mio, non c'è la mia sagoma. Beh, però... anche, era una sagoma bella grossa. Per aspetta, che fra poco glielo dico, fra poco glielo propongo. Mettete pure la sagoma di Adinolfi con le freccette. Che grossa. Devo dire la verità, io ieri gliel'ho anche detto, Parenzo, non è una cosa di grandissima questa cosa qua. Ma è un gioco, ma è anche dai, una cosa, ho capito, ma siccome loro sono sempre quelli che dicono, no, che dicono la violenza, le cose così, mettere la sagoma dei Giovanardi dichiaratamente con le freccette, gioco. Amico ma mio. Ma freccette di plastica. Quelle che non faranno neanche male. Ma che c'entra, grazie, ma è mica vero la sagoma. Appunto, dai. Guardate che c'è tanta violenza in questa supposta anti-omofobia, c'è tanta violenza. Perché? Ma io ripeto, andatevi a leggere quello che mi scrivono tutti i giorni su Twitter e Facebook i supposti anti-omofobi. Beh, e leggete quanta discriminazione, per esempio, sulla mia conformazione fisica c'è tutti tanti giorni. Cioè, il discriminato sei tu. Voglio la legge sulla ciccionofobia, la chiedo da tempo io. Se c'è quella sull'omofobia, voglio quella sulla ciccionofobia. Ragazzi, è tutta una stronzata, voi dovete averla chiara questa cosa. La legge di Renzi non sta in piedi. La legge di Renzi è una cosa perché non sta in piedi? Sono amico, non lo tengo. sono amico di Matteo, l'ho sostenuto in maniera, spero che non sia lui il fautore di questa normativa, mi pare di capire che siano più dei suoi consiglieri. È una legge che non sta in piedi intanto perché c'è quella distinzione tra coppie omosessuali e coppie, diciamo, di ma quella è normale, giusto fare una legge solo sui gay, non una. E poi poi però c'è l'elemento che tu non lo chiami matrimonio, ma è un matrimonio. Ma vabbè, guarda, negare un diritto è cosa molto violenta. Tu neghi un diritto. Ma quale diritto? Tu neghi il diritto che due cose diverse non si equiparano. Il diritto, ci sono altri diritti. No, Marione, no, no, tu neghi. Il matrimonio è una cosa precisa. Ma lascia stare la parola matrimonio. Lascia stare quello, vai alla sostanza del diritto. Neanche mi puoi fare il trucco. Guarda, questo sembra un trucco, questo sembra un trucco. È un trucco, è un gioco delle tre carte. C'entra allora, il gioco delle tre carte. C'entra lo giudice. Lo giudice è diventato, lui dice, papà. Sì. Come è diventato papà il senatore lo giudice? Il suo compagno ha affittato l'utero di una e l'ha inseminato. Ha fatto il figlio, il suo compagno. Lui non c'entra niente. Però una pagina di Repubblica per dirci che lo giudice è diventato papà. Vabbè, ora sì. Ovviamente per l'anagrafe italiana non è papà, non è papà manco per niente, il papà è il suo compagno. In altri paesi sì, in altri paesi sì. In altri paesi io ritengo che in Italia una normativa del genere non debba passare. Perché quel bambino, secondo me, ha diritto alla sua mamma, non al papà finto che non c'è, che è una cosa surrogata, che non esiste. Ho capito, ma quello, allora, ci sarà uno che farà le veci della mamma tra lo giudice e il compagno, dal punto di vista affettivo, no? Ma come fare le veci? Ma come fare le veci? Sì, ma una coppia, basta l'affetto, basta l'affetto. Basta l'affetto. Basta l'affetto, beh, sì, certo. Basta l'affetto. Cioè, tu puoi strutturalmente negare la mamma a un bambino dicendo che è una cosa che va bene. Ma non è che basta, tu vorresti mettere la targa, ma scusami, tu vuoi mettere la targa allo spermatozoo. È una cosa incredibile. Vuoi mettere la targa allo spermatozoo? Sì. Ma io voglio dire, conta l'amore. Sai come funziona tecnicamente alla faccia dell'amore, un po' a cui credete, un po' è tutta una pregnaccia. Allora, tecnicamente funziona, il suo bambino nasce, viene strappato fisicamente alla madre di cui cerca il seno, perché la natura è questo, cercare la mamma, non c'è un cazzo da fare, funziona così, e lo strappano alla madre e tecnicamente e legalmente dico, tu la madre ce l'hai morta. Ora, secondo te questa è una cosa che può essere oggettivamente accettata? Io la trovo una cosa senza senso. Per cui, secondo te, lo giudice come lo giudichi te? Lo giudice usa il figlio come un oggetto, e questa è la cosa grave. Il figlio non è un oggetto, è un soggetto. Perché come no? Cioè, nel senso, è un egoista. È un soggetto di diritti, è un'altra cosa. E ha diritto, tu dici, ha diritto alla mamma. Ma certo che ha diritto alla mamma, come fai a negargliela? Come fai a negargliela? È nato quel bambino da una madre. Questa cioè, è una utilizza, cosa il figlio, utilizza il figlio per fare propaganda, tu dici. No, io dico che si compra il figlio, è una cosa da ricchi, a sinistra non mi piacciono le cose da ricchi, se lo compra, si affitta una donna, cosa anche quella da ricchi, che non mi piace, assolutamente, e nega a quel bambino il diritto a una madre, che è una cosa violenta. Senti, invece, ora, questa roba qui è bella, è interessante, è progresso, secondo me no. Ma non è che sono tutte così le famiglie, non è che diventeranno tutte così le famiglie, dai Mario. Su. La legge Renzi, che prevede la step child adoption, permette allo giudice di adottarsi quel bambino. Allora, è meno male. Questa cosa... Ma come a te fa orrore? Non è orrore, non ha senso un mondo costruito così. Un mondo costruito in cui ai bambini viene negata intanto, la mamma. Intanto è hai visto, un mondo senza senso. Hai visto che anche, ma non sarà, ma non è che se ci sarà lo 0, di bambini in cui verrà negata la mamma, ma avranno una famiglia. Senti, ma la Pascale che se ne esce con questa cosa qua, come quella è la cosa più divertente del mondo, esattamente, il mondo della Pascale, quello è il mondo della Pascale, ha ragione la Pascale, coi soldi di papà che si compra Dudu, allora ti puoi comprare pure il figlio, è una roba da ricchi, una roba da super. Ma perché se ne esce così, capito? Secondo te? Perché la Pascale si dice a favore del matrimonio gay? La Pascale dice... se ne esce così perché non ci capisce niente, questo è ovvio. Vabbè, che vuol dire? Vabbè, adesso non ci capisce niente. Un orizzonte intellettuale che finisce a telecafone nonostante tutto, insomma. Oltretutto, a destra ci cerca di costruire questa famosa destra liberal, che è una destra pasticciata, senza orizzonti ideali, che appunto ha della Pascale, come dire, la nouvelle Simone de Beauvoir, la vedete la Pascale come Simone de Beauvoir? Io no, francamente. Vabbè, ho capito, come opzione, l'opzione pascaliana. Dice addirittura che Cristo non fa differenze tra etero e gay. Questo è vero. Questa è stupenda, questa qua. Ma dice... come è stupenda, ragazzi. È meravigliosa. Ma che vuol dire? Ma perché dovete mettere in mezzo Cristo su questo? Ma io, la Pascale. No, ma perché? Io... Però perché? Aspetta, fra un quarto perché? D'ora, Mario. Almeno, quello, almeno lasciatemelo stare. Ma Cristo. Che ore sono almeno, lì a Las Vegas? Aspetta, scusami. Collegamento con Las alle Vegas. 10 del mattino. E con la moglie di Adinolfi, questa volta la voglio, dopo il giornale radio, perché voglio far sentire ad Adinolfi Luxuria che dice che voleva adottare un bambino nero. Guarda che questa cosa ti farà veramente incazzare, a tra poco. Francesca, vieni con me a fare il Gay Pride a Napoli il 28, da lì parte la rivoluzione liberale per i gay italiani. No, non mi ammazzo di cane, ma no, un paio al giorno, vado, allora, guarda, adesso ne sto accendendo una perché voi siete realmente la mia vera droga. Venuta nel mio spazio sotto il salice, salice. Intanto Renzi ha annunciato che ci sarà un incontro con il Movimento 5 Stelle sulle riforme. Succede alla RAI durante i mondiali. Succede alla RAI durante i mondiali. Marco Mazzocchi a un certo punto impazzisce e dice a Paolo Bonolis: beh, ci vuole una toccatina al popò. Basta su con questi gargarismi, David. Cioè, stai facendo dei gargarismi in diretta. Siamo in onda? Sì, siamo in onda. È il conduttore? Sì, è il conduttore. Scusa, dei gargarismi in diretta. Ho male alla gola. Questa trasmissione è con la voce, poi ti lamenti, non parli, cosa fai? Beh. Sì, sì. E il conduttore? Certo, il conduttore, non c'è dubbio. Mazzocchi Bonolis, gelo alla RAI, incredibile, sentite. Eugenio. Grazie al direttore. Piacere mio. Dimmi. Genio. Chi è? Jacopo. Sì. Dica. No, e non far andare Paolo via senza una toccatina però, Come una toccatina? Cioè, in che senso? Cose volgari, dai, cos'è? Paolo, che dai. Cose volgari? Che vuol dire? Vabbè, non fa Paolo. Niente, Paolo, scusalo. Paolo Mazzocchi, la toccatina al popò che porta bene, dai. Mazzocchi, sei un pervertito. Sì, vabbè, grazie. Dai, Paolo. Grazie. Io chiuderei qua, ragazzi, Marco. Perché c'ho. Guarda, non mi posso alzare perché ho. Non so cosa mi hanno attaccato, credo sia un catetere, ma. Sì. Se vuoi, fai questa cosa, fallo per Mazzocchi. Lo dai, so, dai, non Eugenio, posso farlo. Vai, che ma dimmi a me che ci metto la reputazione, mi sono costruito. Dai, no, Eugenio. Non lo posso fare, Marco, mi dispiace. Neanche grazie, per la nazionale lo posso fare. Linea Roma. Pensa, niente, grazie. Io più che rimaner prono, prego, salve a voi. Grazie. C'è l'imbarazzo reale, questo punto. Ma sì, in realtà Marco Mazzocchi giustamente voleva fare una roba un po' di spettacolo, no? Cioè voleva che Paolo Bonolis si facesse toccare il sedere da Eugenio De Paoli, che è il direttore di Rai Sport, se non sbaglio. Signor De Paoli, un po' più serio, diciamo, un po' più composto, sì. Ma io non faccio questa sì, cosa. Sì. I protagonisti di questa sceneggiata, di questa scenetta che avete sentito, sono Jacopo Volpi, che era in studio a Roma, mi sembra, o a Rio de Janeiro, dov'è? Paolo Bonolis, che si è, a un certo punto si è messo col sedere così prono per farselo toccare da Eugenio De Paoli, sì. Rai Sport, e Marco Mazzocchi, che secondo me invece voleva fare una cosa simpatica, sì. e l'altro ha detto: io ho una reputazione che è una piccola scenetta. Ma può succedere pure una cosa del genere, no? Vabbè, TG3, dai. Non sanno scherzare questi alla RAI. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Si spacca Sinistra, Ecologia e Libertà, dimissioni di Migliore e Fava, si è interrotto il rapporto di fiducia, avendole un giorno di dolore. Vertici su riforme tra Boschi e Romani, il capogruppo di Forza Italia al Senato passi avanti ma resta da fare, Grillo pronti a discutere ma Renzi non risponde, al processo la Vitola, Berlusconi attacca i giudici, magistratura incontrollata e con piena immunità, il Presidente risponda alle domande. Sono innocente, non ho mai conosciuto Iara, rompe il silenzio davanti al GIP Giuseppe Bossetti accusato dell'omicidio della ragazza, quella sera ero a casa. Felipe VI è il nuovo re di Spagna, l'erede di Juan Carlos, ha giurato dinanzi alle corte spromettendo l'unità del paese ed una monarchia al passo con i tempi. In Iraq si ferma l'avanzata dei jihadisti e le forze governative riconquistano la maggiore raffineria, il Pentagono invierà 100 uomini delle forze speciali. L'Italia cambia volto in difesa per la sfida contro la Costa Rica, domani in palio c'è il primo posto nel girone e si parla del ritorno di Buffon. Silvio forever sarà, Silvio Realtà. Fra poco di nuovo da Las Vegas, Mario Dinolfi e moglie. Tutta la famiglia reazionaria al completo. Ma che reazionaria? No, ma... Ah, io rifiuto queste etichette. Famiglia reazionaria, è una cosa. Ha le sue idee, ha le sue idee. Ma lui sarà felice di essere definito, ma glielo dico. Ma assolutamente no. Però adesso siamo... Ma insomma, la reazione. Senti questa invece, senti la Biancofiore che dice bisogna tornare nelle piazze. Certo che questa Forza Italia lo sbando, sta diventando veramente marginale questa Forza Italia su tutto. Adesso sì, se ne sono usciti col presidenzialismo, probabilmente ci sarà questa storia delle riforme, questo accordo, ma insomma è marginale, marginalissimo. Biancofiore che dice bisogna tornare nelle piazze per far toccare il santo, cioè Berlusconi. Far toccare il santo. Dici mia il santo. Una cosa che vorrei dire al mio partito è che anche noi dovremmo tornare alla piazza. Anzi, come dice un mio amico avvocato che mi ha fatto morire dalle risate ieri, dice che noi dobbiamo tornare alla piazza perché devono toccare il santo, dobbiamo fare le processioni e toccare il santo. Che sarebbe Silvio. Sì, noi ci siamo un po' troppo infighettati, scusate il termine, e io sono stufa anche di vedere tutti questi dei nostri imbalsamati quando invece dovremmo fare il descamisados. Io lo sono, no? Sono di natura. Ma che vuol dire descamisados? Far toccare il santo, c'è Berlusconi in processione, dai ragazzi, no, su. Dice che è più da battaglia lei, la sera Biancofiore. Allora, ieri Luxuria dice: sono andati in Africa, ho visto i bambini abbandonati, voglio adottarne, volevo prenderne uno e portarlo via. Sentite. Quando ho visto gli occhi di questo bambino e lui sperava che io me lo portassi via, mi si è smosso qualcosa dentro, perché io sono sicuro che questo bambino piccolo che mi guardava, ma secondo me neanche gliene fregava un cazzo a lui sapere se ero maschio, femmina. Quello era uno che diceva: datemi una medicina se ho la febbre, datemi un libro di scuola per mandarmi a scuola. Questo che voleva questo bambino. E io mi sono sentita quasi in colpa a lasciarlo lì. Adinolfi da Las Vegas. Perché non l'ha portato via, insomma, questa è la domanda, perché non l'ha portato via? Perché non si poteva. Secondo te sta meglio in Africa lì o a casa della signora Luxuria, cioè così a naso? Ma io spero tanto che vada a casa della signora Luxuria, qual è il problema? Io mica contesto l'affidamento, magari voglia dare una mano, per carità. No, l'affidamento, l'adozione. L'adozione è un'altra cosa, diciamo, non si può far finta di essere mamma se non si è mamma. Il dato centrale che mi interessa è che questa continua crociata è violenta dalla parte degli anti-omofobi. Sapete la notizia che vi do in questo istante? Che è successo? In questi minuti, cioè? Mi hanno chiuso il profilo Facebook. Come ti hanno chiuso mi il profilo? Mi hanno chiuso il profilo Facebook, ha chiuso il mio profilo definendolo omofobo. Ma no, dai, non è possibile. Non è vero. Andate, provate a contattare in questo momento. Adesso ci vado, Adinolfi. Mario, cioè, Adinolfi, cioè tu stai dicendo che c'è la lobby gay a Facebook, la lobby Mario. E poiché Mario Adinolfi gestisce anche il profilo di Voglio la Mamma con 23.000 aderenti, allora questi due profili in questo momento non sono più accessibili. Mario è stato comunicato 10 minuti ma fa. Ma non ho capito perché il gay... Mentre andavi in onda il GR, capito? Cioè le lobby gay controllano mi Facebook. Mi hanno segnalato, secondo loro... E che devo fare? Dimmi secondo te chi c'è dietro. È una violenza, appunto. Ma non è che chi c'è dietro. Sicuramente ci sono state più segnalazioni di quel gente come Luxuria che mi ha definito omofobo. E per via di questo io non posso più parlare neanche sui social network. Però tu mi hai detto... Questo è un elemento violento secondo voi o no? Beh, certo, se hanno chiuso il profilo Facebook e tu non puoi parlare sul tuo profilo Facebook, mi confermano che è vero. Mario, è un atto violento. È sicuramente un atto violento. Vabbè, ma tanto te lo ripristino. Allora, questo è quello che accade, capisci? Questo è quello che accade veramente tutti i giorni, altro che il lavoro. Tutti i giorni passi questo. Vabbè, adesso 10 minuti fa è successo mentre ero in onda la Zanzara, tanto come sapete avevo annunciato su Facebook che ero ospite da voi e in questi minuti è stato chiuso il mio profilo Facebook. Allora saranno questi atti che vengono ma chi c'è dietro? Ripeto, gli omofobi, quelli che mi definiscono omofobo, i Luxuria di turno segnalano a Facebook la mia presunta omofobia e ottengono questo risultato: la chiusura della mia possibilità di esprimermi. E non sono omofobo, non ho nessun attimo nei loro confronti, non ho nessun fastidio nei confronti delle relazioni omosessuali, ho una vita, diciamo, da peccatore incallito, come tu dici bene, sei a Las Vegas, diciamo, sì. Non sono proprio uno. Sì. Hai quindi non hai raccontate perso? No, spero di vincere, c'è sta il mondiale tra pochi giorni. Ora, quello che spero che sia chiaro è che nei confronti di chi difende la linea del no al matrimonio omosessuale è in atto un'offensiva violenta. Ah, beh, addirittura un'offensiva, un'offensiva, dai, ragazzi, dai. Questa è un'offensiva. Se ti tolgo una trasmissione, Giuseppe. Ma sì, certo, ma adesso lo rimetteranno. Io parlo via social, no, non lo rimetteranno, vuoi scommettere? Ma va, il profilo Facebook, ne farai un altro, denuncerai, va bene, ma ne dovrò fare un altro, tu dovrai fare un'altra trasmissione, ti farebbe piacere. Allora, questo è l'elemento che vorrei che fosse chiaro. Per dire queste cose si pagano prezzi enormi, per dire le fregnacce, per dire che non vuoi il matrimonio, non si paga niente, anzi si viene esaltati, altro che radical chic che starei io. I radical chic sono loro che poi incassano il gettone per andare a fare gli opinionisti al Grande Fratello. Beh, vabbè, ma che c'entra così, questo, dai? Funziona che c'entra? Questo un po' è bello, no, l'accusa era questa, l'accusa. Vabbè, era ma che c'entra? Anche se l'accusa effettivamente era quella di speculare da sinistra. Non fanno neanche parlare su Facebook, altro. Vabbè, questo non è brutto. Neanche parlare su Facebook. Non ti fanno dire per mezzo minuto che esiste un tuo libro in televisione. Loro vabbè, vanno al Grande Fratello, tu non dici mezzo minuto. Ma esiste secondo te la lobby gay? Esiste o no? Esiste la lobby gay? Ma certo che esiste. Ma certo. E da chi è fatta? Da chi è composta sta lobby gay? Ma da chi è fatta? Ma scusa, ma tu non hai avuto il caso Barilla a casa tua? Non ce l'hai avuto quel caso? Quella non è stata la lobby gay. Quella non è un lobby gay che si è organizzata per... Ma non la lobby, è il mercato andare, americano, ma non è no, la lobby, non è il mercato americano che non tollera intolleranze, che non tollera... Ma in Italia, il capo di sta lobby gay, da chi è... Ma non ci sono i capi, esiste una lobby appunto, la lobby è fatta... Cioè, a un certo punto, se uno dice una cosa, che non è, diciamo, nel solco, tu dici della... Viene messo in croce, come è successo a Guido Barilla, che ha dovuto fare il video di scuse con tanto di vergogna per aver detto vabbè, che faceva gli spot sulla famiglia. Vabbè, proseguiamo. È una cosa incredibile. Vediamo che succede al profilo Facebook di Mara Dinolfi. Ciao Mario, grazie. Ciao, abbracci. Ciao. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto. Leggo, caro Parenzo, da un libro che ha come titolo Il cuore oltre gli ostacoli, la mia storia. Zitto, Il cuore oltre gli ostacoli, la mia storia. Mondadori. Flavio mi aveva inviato i suoi scritti, i suoi libri così profondi che avevano contribuito a farmene innamorare perdutamente. Sentivo dentro di me di essere pronta per lui. Questo dovrebbe essere fare l'amore, esprimere con il corpo ciò che non si è più in grado di esprimere con le parole, penetrare nell'anima l'uno dell'altro. Fu davanti al caminetto scoppiettante, mentre a me continuava a squillare il cellulare, che cedetti al primo bacio. Bellissimo, lungo, sensuale, penetrante, mi sentii infuocare dentro e mi assalì la voglia di fare l'amore con lui, lì subito. Ci fermammo in tempo, entrambi pur attratti l'uno verso l'altro. Io avevo l'handicap del sesso dopo il matrimonio. Lui poi mi prese la mano con tenerezza, spense il fuoco, mi abbracciò, mi diede un bacio sulle labbra e mi condusse sull'uscio della mia stanza. Tentai di far fugliare qualcosa e lui mi mise un dito sulle labbra dicendomi stai tranquilla, ti capisco. E aggiunse amore, portandomi la testa teneramente sul suo petto. Mi misi un negligé carino e non il consueto pigiamone di flanella. Volevo toccarlo, stringermi a lui, passare la notte con lui, sentirlo parte di me. A un certo punto non ce la fa più, gli bussai alla parete e lui rispose subito. Non dormiva, stava scrivendo. Mi chiamò dal telefono interno e mi chiese se poteva venire a trovarmi. Un po' inconsapevole di quello che stavo facendo, gli risposi di sì. Appena varcò la soglia fu passione completa, ricca di dolcissimi preliminari, ma dietro la passione si nascondeva il dramma. Flavio, al momento di fare l'amore, mi respinse e io rimasi lì per lì traumatizzata. Dopo un momento di stizza lui scoppiò in lacrime e mi raccontò di non essere mai riuscito a fare l'amore con una donna, che non poteva farlo per una rara malattia. e che voleva sparire dal mondo. Michaela Biancofiore, Il cuore oltre gli ostacoli, la mia storia, un tomo di 400 pagine. Nicola, provincia di Venezia. Beh, Nicola, siamo alla grande letteratura, eh? Siamo al top. Nicola, beh, provincia di Venezia. Gli fa una pippa a Ghete, eh? Ha le affinità lettive di Ghete, gli fa una pippa, eh? Siamo al top. Nicola, provincia di Venezia. Parenzo, due punti, gli fa una pippa a Ghete. Oggi che stiamo degenerando, Beh. Vai, Nicola, vai, vai. Ciao. Dai, no, forza. Sulle parole di prima di Luxuria, che giustamente faceva quel riferimento ai bambini da poter adottare. Per me è la soluzione migliore per dare amore, perché l'amore ovviamente non si nega a nessuno, soprattutto a questi piccoli orfani. Però dove cazzo vai in Africa a fare Luxuria? Siamo pieni di bambini orfani in Italia. Vabbè, andati in Africa per l'UNICEF, dai, su Nicola, dai. Ha fatto anche il parlamentare, perché l'ha fatto prima. Ma cosa c'entra, scusa, che ha fatto il parlamentare? Cosa diavolo c'entra? Ha girato l'Italia, ne basta andare in qualsiasi, purtroppo, ufficio dei servizi sociali in ogni comune italiano, è pieno, poverino, di bambini. Adesso mi segno. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra, Nicola? Cosa c'entra? Il numero di quanti stupidi chiamano. Primo stupido, ecco. Ah, Luigi d'Ancona. Stupido. Ciao ragazzi, finalmente. Un saluto a Parenzo, che se la prendono tutti con lui sempre. Ciao, se lo merita. Cioè, il professore è incazzato con noi, lo sai, sì. Sì, ho visto, volevo dirti oggi pomeriggio. È una roba ho terribile. Visto. Il professore avvocato Carlo Dormino non è imbufalito con noi. Ma non ma si capisce perché. Sequestro, ma stavolta sequestro non abbiamo. Nastro. Sì, ma vabbè, il sequestro, d'accordo. Sequestro, immediato. Addirittura un anno. Immediato. Tutto l'ultimo anno di trasmissione. Tutto l'ultimo anno, certo. No, ma certo cosa. Certo che. Ma poi ti faccio sentire perché. Che Luigi D'Ancona è incazzato per le frasi che ha detto Luxuria. Abbiamo chiesto il sequestro, certo. Ma sequestro di cosa che ci vuole portare in tribunale? Sequestrato, certo. Sequestrato tutto. Anche ma qui è un casino. Ma, siamo. Guarda, ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Allora, ma infatti, non facciamo ridere. Per ma favore. Ha ragione. Il sequestro anche della trasmissione di Barisoni, chiediamo, eppure di Milan. Sequestrato tutto. Vabbè, Luigi, dai, Luigi D'Ancona. Passeremo a setaccio tutti gli audio, tutti. Ma poi non abbiamo parlato della sua professione. Passeremo a setaccio tutti gli audio. Ma che passeremo al setaccio tutti gli audio da Milan fino a Magol, come si chiama? Fino a Nicoletti, tutto gli audio al setaccio. Detto Magol, Melog. Coglione, Magol. Luigi D'Ancona, dai, Luigi. È un delirio tra Parenzo, Biancofiore, Taormina, Adinolfi, non ci capisco più niente. Vai. Volevo solo controbilanciare le idiozie che ha detto Adinolfi fino adesso, che vabbè, idiozie, no, è convinto che il matrimonio tra gay non sa da fare, punto e basta. Sì, ma dice delle cazzate, dice i bambini che cercano la mammella, ma allora le mamme che non allattano, scusa, no, mamma non ha detto questo. Sì, sì, no, sì, hai ragione. Ha detto questo, sì, ha detto questo. Ma comunque, lui non sa che il senso, lui parlava di senso, di naturale, queste sono cose che cambiano nello spazio, nel tempo, voglio dire, c'erano delle popolazioni aborigene che si facevano i pompini uno con l'altro omosessualmente, si bevevano lo sperma, era tradizione, era facevano, tutto normale. Scusi, che facevano le popolazioni aborigene. Fellatio omosessuale. Le popolazioni aborigene. Sì. Vabbè, sì, ho capito, adesso questo non è che sia un argomento per dire che bisogna fare così per forza. Che le cose cambiano nel tempo e nello spazio. Certo, ma su questo siamo d'accordo, perché siamo d'accordo, però di Dolfi no, evidentemente. Lui ma lei com'è che idea. Conosce le tradizioni aborigene? Esatto. Io leggo, a differenza tua, Parenzo. Legge delle cose particolari, però, diciamo, con tutta la letteratura che c'è da leggere, da Ghetti alla Biancofiore, come dicevamo. La conosco, però l'antropologia non ha sviluppato solo queste cose. Comunque, che lei... io volevo dire un'altra cosa, perché che il punto dire, è che dimmi. Anch'io ho una mia opinione, Adinolfi è contro i matrimoni omosessuali, io sono contro i matrimoni tra obesi, perché diciamo l'obesità è uno degli indicatori di vita poco sana, di morte prematura, quindi non vorrei che i bambini che siano cresciuti da obesi diventino obesi pure loro e facciano una vita poco salutare e brutta, voglio dire. Giuliano da Perugia, Vai. Buonasera, no, volevo sapere da Parenzo che era contro, diciamo che non voleva più che si incontrassero i grillini con Renzi, perché c'erano state delle offese da parte dei grilli Grillo, confonde un po' di cose, non ho capito cosa vuole. Prima si diceva non che voglio non... niente. Ma no, no, ma io ho detto, ho semplicemente... Prima lei era dell'opinione che Grillini non propone Evano. No, non ho, ironizzato sì. Ho ironizzato sul fatto che per mesi, come abbiamo documentato con l'archivio della Zanzara che verrà sottoposto a sequestro cautelativo tra pure un po', quello. Abbiamo documentato le parole di Grillo verso Renzi e quindi ho scherzato dicendo che, che è come invitare Attila a cena al ristorante, un ristorante Michelin 5 stelle, non è che inviti Attila, lo inviti da un'altra parte. Ma poi va Grillo o va qualcun altro? Anche perché che c'è da Grillo? Il movimento è Grillo ormai. Ma il movimento non è quelli che non la pensano come Grillo sono scusi, tra l'altro Giuliano, scusa, a parte che il movimento è Grillo, questa cosa qua del dialogo dialogo con Grillo, cioè con Renzi, no? Cioè sulla riforma elettorale è stata sottoposta al parere del blog, è stata sottoposta al parere della rete, c'è stato un referendum se farlo o no, hanno deciso a un certo punto Grillo, Casaleggio, Di Maio e forse gli altri, hanno deciso loro, tant'è che moltissimi militanti, nonché parlamentari, hanno detto beh forse dovevamo decidere anche noi se avviare questo dialogo o no. Grillo è il capo politico, se lo mettesse in testa del Movimento 5 Stelle, e dunque deve fare il capo politico, non è che può dire no, decide la rete, decidono i parlamentari, perché quando poi si tratta di cose serie come trattare o meno con Renzi, aprire un dialogo o meno con Renzi, alla fine decide lui senza consultare la rete. Ma su questo infatti sono d'accordo che non è giusto che decida solo lui per sé. Beh, ho capito. Per me non può essere capo politico senza poi esserlo effettivamente, perché anche nelle realtà locali Grillo non c'entra, cioè il movimento, i grillini come vengono chiamati, sono persone che in certe realtà, anche come quella di Perugia, se andavano al ballottaggio anziché centrodestra vincevano il posto della sinistra che ha governato da anni. Adesso questo non lo so, intanto al ballottaggio c'è andato l'altro, per cui dove andiamo? Marco da Como. Marco, buonasera. Allora, in merito alla strategia della Pascale, sì, o la Bones ha ragione, sì, e la Pascale lesbica, oppure lei lo sa che la Pascale, per le cose dette dalla Bonif, l'ha trascinata in tribunale, sì, per diffamazione, eccetera, eccetera. Ipotesi che faccio io, semplicemente. Quale ipotesi? Sulla base di cosa? Uno dice quella è lesbica, così. Ma dai, ma come si fa? Dell'intervista dell'altra sera, che di settimana scorsa. Vabbè, quella ha fatto un'intervista, un'intervista sui matrimoni gay, mica ha detto che è lesbica, scusi. No. Era un'ipotesi che facevo io, anche lei l'altra sera faceva delle ipotesi in merito alla bisessualità della Pascale. No, io ho detto, ho chiesto a qualcuno, secondo lei perché se n'è uscita con questa cosa qui? Io non ho mai detto nulla del genere sulla Pascale, perché non si è chiesto perché sono affari suoi. Certo, è strana questa uscita, non c'è dubbio che sia strana, appunto. Oppure Forza Italia ha le pezze talmente tanto al culo che è uscita con Evviva i Froci, l'ultima carta da giocare. E via, intanto gli altri se ne sono andati tutti nel nuovo centrodestra. Sembra essere un po' più liberale adesso il partito e probabilmente si gioca questa carta, semplicemente. Va bene, Marco, grazie. Andrea, provincia di Varese. Andrea, buonasera. Cruciani, io volevo dire una cosa. Prima di tutto premetto che non sono contro le unioni civili tra gay, perché comunque credo che sia anche giusto regolarizzare quel tipo di rapporti. Tuttavia però penso che non sia corretto parlare di adozione, perché di solito quello riproduttivo è un istinto. E è un istinto. Sì, quello riproduttivo, sì, è così. Sì, ma certo, ma non è che i figli si fanno solo in questo modo, si adottano, eccetera. La scelta è farli adottare anche a singoli omosessuali o no. Ci sono paesi molto aperti, ci sono paesi invece che mettono dei limiti. L'Italia mette moltissimi limiti, come sa, anche all'adozione normale, peraltro. Ma io sto dicendo un'altra cosa, che se questo istinto qua al suo culmine nell'atto riproduttivo sessuale... Aspetta. Come mancava di mio amore. Professore? Direttore? Dica. Pronto? Pronto. Chi è? Chi è? È il direttore Fede? È il direttore Fede. È il direttore? È il direttore. È il direttore Fede o no? È il direttore Fede, sì. Che fa? Mi faccio una sega. Tu? Ma come? Un consiglio, eh? Dammi un consiglio. Fatelo anche tu. Ma come, direttore? Così non rompi i coglioni. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Non mi molesti moschito. Era il direttore, ti giuro, lo volevo chiamare. Ma perché? Cos'è successo? Era Fede, è impazzito. Ma perché ha risposto così? Ma non lo so. Non lo so, sembri il bambino che mette le dita nella Nutella. Ma no, non lo so, non aspetta, lo so. Aspetta. Ma guarda, chiedo il sequestro anche di questo nastro. Ma perché cosa stai facendo? Non lo so. Il bambino che rompe il vasetto di Nutella. La mamma dice: Giuseppino, dov'è la Nutella? Non lo so. Tutta rotta per terra. Cosa hai fatto? Mio amore. Direttore? Fatto? Direttore? Sì. Come stai? Direttore. Come stai? Bene. Non lavori? Come? Non lavori? Lavoro, sì. No, sono qui ai centri sociali. Come ai centri sociali? Spazzo il palazzo Montecitorio. Tutti corrotti. È il tuo capo? No, condannato. Il mio capo guida il paese. No, non guida più paese, condannato. Sì, condannato. E voi stronzi potete fare niente, soltanto andare per strada a fare puttana con mamma. Ma che vuol dire? Vaffanculo, dai, su, se ti diverte va bene, ti vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto, ti vada. Salve. Gerani sui Balcani che vengono lontane le zanzare. È laica, è laica, la matriosca è laica e suona con maestria l'arpa. Mi sono fatto ingolosire dal fatto che Fede risponde alle telefonate in questo modo. Davide, rispondi te adesso. Davide, rispondi te. C'è in omaggio l'astronauta Gagarin. Zanzara. Dove eravamo? Fammi chiamare il mio amico Rom intanto. Professor, direttore? Dica. Oh, siamo noi. Ah, siete voi. Oh, eccoci, come stai? Bene, credo che... Ma che succede ogni volta che insulti? Come? Ho sentito, prima ti ho chiamato io. Ma dove sei? Non si sente niente. La telefonata di prima, ti ho chiamato io e hai insultato. Non avevo capito, prometto passavo una macchina di queste... E limousine con una coppia di sposi che mi salutava. Io ho detto, ciao. Sei impazzito, non ho avuto manco il tempo di dire che all'inizio. No, certo, sconosciuto, caro mio. Quante persone ti chiamano? Scusa. Beh, hai ragione, scusa. Sì, no, questo è vero. Quante persone mi chiamano e mi minacciano? Addirittura. Sì, direi anche che sia anche pesantemente. Però guarda, l'importante è che proteggiamo la fragola, come si chiama? La gringolina. L'ex ministra, quella di colore, quella salve, capito? La Chieng. Ma che c'entra, scusa, perché tu stai dicendo io non ho la scorta mentre la Chieng ha la scorta, non ho capito bene. No, ne ha tre però, no, io voglio dire, sono qua, giro, francamente, sto benissimo, sì, non si può mica dire che sta benissimo, però... Diciamo che sto abbastanza bene. Prima, certo, quando qui compare il nome di uno sconosciuto, che devo fare? Prima lo mando a... Ma perché? Ma quante persone ti chiamano? Pure durante la notte ti chiamano? Sì, ieri fino alle 4 del mattino. Allora, no. Fino a che sono sveglio, sì, poi spengo. Però, ma che ti dicono? Che ti dicono? Spiegami. Beh, vabbè, alcuni mi fanno... Altri invece la domanda è sempre la stessa. Senti, mi presenti i rupi? Così, no? Io poi mi diverto a fare l'extracomunitario. Tu, Bruno, non rompere il coglione mio, perché io per tua madre ti porto via, perché qui sul marciapiede lei non ti vuole correre, ci sono le nostre donne che lavorino. Ma perché la gente chiama? Adesso si dovrebbe fare i ragazzi, quelli giovani che non ti sopportano, siccome si riuniscono la sera davanti a un bar, chiamiamo Fede. È diventato bravissimi, siete proprio quelli della casa, siete bravissimi. Cioè, siccome si riuniscono davanti a un bar, è un gioco di società. È diventato il circolo, il club, ci sono i club di qua, il club di su, il club di giù, ebbene, allora ci sono quelli che la sera, è vero, sapete che facciamo stasera? Facciamo chiamiamo Fede. Chiamiamo Fede, lo insultiamo. Dice chiamiamo Fede, lo insultiamo, così, funziona così. Allora sai, a volte, se diciamo così la telefonata può anche essere cortese, io l'accetto, ma io ti frego subito. Perché io mi diverto moltissimo, no? Beh, abbiamo sentito, cioè una raffica di insulti pazzesca. Sì, no, pazzeschi. Poi parla e dico, oh, tu, niente Boeing, mi ha tu tratti così. Io donna, tu madre, qui porti via, qui il marciapiede non si può fare quelle cose brutte per 2 euro, qui ci rovina il mercato noi extracomunitari. Che è buono mangiare da casa, mangiare direttore a 1 euro mangiare. E voi mangiate sì, ma anche noi arabi, tu non puoi disturbare arabo, io arabo, poi dico 2 parole in arabo, Badi Bukra che significa domani, sì. E poi dico shukran che dire, che vuol dire grazie, grazie tante, sì, grazie, e le rimangono perplessi. Vabbè, certo, senti, devo dire la verità, sai Parenzo, che Emilio Fede è stato il primo a tirare fuori il nome di Pippo Inzaghi. Cioè fu il primo a dire questo, bisogna dirlo, solo sarà il prossimo allenatore del Milan. Come mai hai avuto questa intuizione, Emilio, questa fantastica intuizione? Io e Pippo siamo molto amici, siamo amici della notte, eh? Ah. Amici della notte, non la notte trasgressiva. Beh, diciamo anche lui, diciamo, come dire, il sesso femminile, sì, no? Allora, la farfallina gli piace. Gli piace la farfallina, eh? No, sì. No, la zanzara no, eh. No, quello, la farfallina gli piace parecchio, gli piace. Vabbè, anche a me è dei tempi, Cioè è dei nostri, diciamo, è dei nostri. No, è che voi dalla zanzara, sì, non sapete, voi oramai siete incastrati in questa trasmissione. È vero, hai ragione. Quindi, questo è vero. Pippo Inzaghi, io ho detto Pippo è bravo. Secondo me Pippo, che poi è bravissimo, vero, conosce a memoria vizi e virtù dei calciatori, in senso tecnico. In senso tecnico, sì, in senso tecnico. Però anche da quel punto di vista è un esperto. È un esperto di femmine, ci avete avuto vari incontri. Ah, no, aspetta, di femmine. Un esperto, sì, guarda, lui, quella lì non gliela puoi togliere. Non gliela puoi, è malato anche là. No, malato no. Beh, però grandi numeri. Beh, a Pippo Inzaghi gli piace la farfallina, non è una colpa. No. Secondo alcuni magistrati è una colpa, diciamo. Secondo alcuni magistrati è una colpa. Un attimo solo, torniamo con Emilio Fede. A tra poco. Dimmi amore, dica pronto, chiaro. Faccio una sega, tu poi consiglio, fatela anche tu. Non ci importa se il tuo sangue è rosso blu, dolce amaro nota blu. Prima del morso ti puoi anche confessare e dirci quello che ti pare. Ci puoi anche querelare, puoi portarci in tribunale. Allora, Emilio? Eccoci qui, Emilio Fede, ex direttore del TG4. In diretta dal Gianicolo di Roma. In diretta dal, come a Roma? No? Ma non stavi a Milano, scusa? No, sono arrivato a Roma poco fa. Sono arrivato a Roma poco fa con il freccia. Oh, intanto il GIP non ha convalidato l'arresto del presunto omicida, attenzione, omicidio di Yara Gambirasio, tutti quanti, Alfano, amico mio, Alfano che diceva abbiamo preso l'assassino, resta in carcere questo signore, però il GIP non ha convalidato l'arresto. Quindi vuol dire che adesso passeranno... Che ci sono comunque, bisogna fare dei riscontri, eccetera, eccetera, che sì, il DNA il GIP solo... Il GIP chiede ulteriori documentazioni, ulteriori prove. Non basta evidentemente il DNA, evidentemente non basta. Non il DNA. Bastano le prove del PM che l'accusa ha portato, questo è il punto. Sì, esatto. Ecco, questo sì. Sono piccole e signore fastidiose, le zanzare, ti rendi conto Alfano, no? La figura di palta che ha fatto il ministro degli interni, rafforzata da questa cosa qui, rafforzata. Vabbè. Allora direttore, quanto piace la farfallina al nuovo allenatore del Milan? Eccoci, scusa, ho sentito che parlavate della tragedia di Bergamo, io l'ho seguita per anni. Come per anni? Per 4 anni, beh, insomma, da TG4, non ha convalidato, scusa intervengo, poi parliamo di altro, mentre ancora stiamo parlando di altro, però è giusto, cioè vuol dire è una colpa talmente enorme che devi essere sicuro di poterla affibbiare ad uno che vuol dire una tragedia nella tragedia, sempre il caso non fosse vero. Io sono per la presunzione di innocenza fino a prova definitiva. Parlavamo del Milan, parlavamo di Pippo Inzaghi? Sì, sì, certo. Grande, grande allenatore, bravissimo. Beh, l'hai consigliato tu a Berlusco o no? Hai messo la buona parola, bene. Hai messo la buona parola, dai. Ascolta, ascolta, no, voglio dire, ha parlato sempre bene di Pippo a Berlusconi, sì, anche a Galliani, sì. Diciamo che forse non ce n'era bisogno, perché Galliani no, certo, stimato. Certo, però, sai, una parola in più, una parola, Ma sì, simpatico, poi gli ho detto che era uno come noi, ma per dire, perché... Cioè, era uno che gli piace le femmine, diciamo, Però ieri gli piace la vita, la mondanità, ma stavolta vado a lui... Ma vi siete incrociati? Avete avuto delle donne in comune? In comune, nel senso insieme tutti quanti? No, no, mica la mucchiata, Emilio, no, dai, no, perché, no, perché in c'è? In comune, no, che ne so, in comune, ah, cioè, tu dici nel comune... No, ma che ne so, qualche serata ad Arcore è venuto Inzaghi, sì? No. Mai, no, mai, di quelle serate lì, no, mai? Non l'ho mai visto, è stato pericoloso, Inzaghi è ambitissimo, Da chi? Dalle donne, dici? Dalle donne, sì. Sta camminando, ma che è? Che fa? Sì, è fermo, fermati un attimo, direttore. Come? No, fermati un attimo. Ma che fai al Gianicolo? Non si capisce, alle 20.03, che cosa fai al Gianicolo? Che stai con l'impermeabile al Gianicolo, che fai? No, perché gli dici? Ma che c'è un freschetto, come si chiama, il ponentino romano, che nonostante Ignazio Marino, distrutto questa Roma, il ponentino non è riuscito a distruggerlo. C'è questo bel ponentino, belle ragazze. Questo non guasta, diciamo, non guasta. Però voglio dire, potrebbero essere un limite queste belle ragazze che circondano Inzaghi. Adesso posso dirti, è talmente serio. Lui si studia i personaggi del calcio, giocano, cioè, veramente è, tra virgolette, la parola malato di calcio. Quindi, secondo me, hanno scelto bene, e poi, soprattutto, per un simbolo, le cose sono pazze. Poi adesso basta, però, via Sedro, via Allegri, arriva Pippo, teniamoci Pippo. Ah, beh, certo. Ma senti, ma dacci una tua previsione su quello che farà l'Italia ai mondiali. L'Italia con cose d'Italia adesso ai mondiali? Sì, l'Italia ai mondiali. Guarda, c'è una cosa importantissima, secondo me, che ha restituito al paese una voglia di cosa, di allegria. Ma adesso, non voglio fare il patriottico a tutti i costi. Dai, insomma, no, allegria, perlomeno, non so, rivedi il tricolore, va bene. Adesso e domani ci saranno le città vuote. Cosa farà? Io. Dici la tua. Dire, no, ti dico la mia. Ha faticato. Molto affaticato. Ma ancora che contratto hai con Mediaset? Quanto ti manca alla fine di sto contratto con Mediaset? Diretto. A morire. Un anno? Quanto? Sono 2 anni. No, però te ne manca uno, sollevato di peso. Ti manca ancora un anno. Ti manca ancora un anno, no? Il 28 marzo ho festeggiato, si fa per dire. Anni, però va bene, sto ancora bene, e poi non è detta l'ultima parola. Cioè? Voglio dire, innanzitutto voglio capire, una cosa che non c'entra niente col problema del TG4, la famosa lettera anonima, ma tu lo sapete? La lettera anonima con la valigetta. No, ma la valigetta del carcere non è mai esistita. Con 2,5 milioni di euro mi hanno sbaligiato casa, pensato io a casa c'erano 2,5 milioni. Ma chi? Sta valigetta. Chi se l'ha inventata sta storia della lettera anonima? Hai un indizio? Hai una. Beh, io guarda. Tu? Io sono il commissario Bernetti, come si chiama, Bernabola, commissario Celbi. Non si sente niente. Vabbè, non si sente! Non dirà come dice sempre Cruciani. Non si sente! Come? Non si sente, si sente poco, direttore, ti abbandono, a presto, ciao. Maurizio da Milano, Maurizio. Dovevamo finire il discorso di martedì del... Che succede? Sì, quando parlavamo di Motta Visconti, no? Si ricorda che... Ma no, no, no, no. Non ammettevo... No, Maurizio, allora, o lei chiama con un altro cellulare oppure non si può intervenire prima di un mese, per cui non so da che cellulare stia chiamando lei, o dal numero di casa, non so da dove. Comunque. No, il cellulare che ho chiamato l'altro giorno. Vabbè, allora non funzionano i nostri filtri. Vabbè, Maurizio, allora? Niente, appunto, dovevamo finire quel tipo di discorso. Ma non so che discorso stava facendo, ne ho fatti 100.000 nel frattempo. Mi dica cosa ne pensa, punto e basta. E cosa ne penso? Cosa ne penso? Vabbè, che io Domenico da Terni, vedevo... dai, Maurizio, se non si sbriga, cosa le devo dire? Io non vedevo via d'uscita per chi fa del male ai bambini e agli anziani. E allora? Sì, ma non me lo ricordo, è uguale, lo ridica. Okay. Dunque, non vede via d'uscita. Dunque, cosa vuole fare? Cosa vuole fare con questi qua? Non ho capito. Ma niente, voglio dire, non hanno, gli dicevo anche l'altro giorno, c'è un jolly nella vita, questi qua se li erano giocati in questa maniera, no? E dunque? Dunque, voglio dire, non è che c'è molto da lei è una persona intelligente, capirà da solo cosa bisogna fare, no? Cioè, qua abbiamo un Non ho capito, se me lo dice lei forse capisco. Certo, ma qua abbiamo un capobo di turno che uccide tre persone italiano. E gli danno 20 anni. E poi abbiamo un Corona che per fare 4 foto gli danno 15 anni. Ma secondo lei è una giustizia giusta questa? Non mi sembra proprio una cosa molto normale. Poi oltretutto questo capobo qua non ci dovrebbe neanche essere. Quindi voglio dire, mi sembra proprio che c'è qualcosa che non funziona, capisce? Cioè, voi chiudete per un attimo gli occhi e pensate di perdere un figlio per mano d'altri. Allora, ma qua di Tommy ha fatto una brutta fine. Sì, ma la sua qua di Tommy non ha fatto una bella fine, povero Cristo. Allora, Maurizio, la sua conclusione qual è? Che ci vuole la pena di morte? E non bisogna farli nuocere più. Non bisogna avere. Ma in che modo? Lo dica lei, in che modo? In qualsiasi modo. Se uno dà la pena dell'ergastolo, sì. Che sia un ergastolo. Fino alla fine, questo. Noi ci scandalizziamo perché prendono a bastonate le foche per il grasso, sì. E Maso ha ucciso i genitori a bastonate e se non ho letto male è libero. Sì, sì, assolutamente no, libero. Allora, sì, ma dopo quanti anni di galera? È libero. Signora, adesso è libero, non c'è dopo dubbio. Quanti anni? Ma è libero, è in giro, certamente. È libero come me, come lei e come il suo collega. Ma più o meno è così. Ma certo, i genitori già per un ordine di cose non dovrebbero mai sopravvivere ai figli, mai. Già è difficile accettarlo per una malattia. Figuriamoci se qualcuno viene lì, ti prende il figliolo, questo si spaventa, piange, l'unica colpa che ha fatto è quella di piangere, da attirare l'attenzione, questo gli dà una badilata alla massa. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guardavanti. Un ascoltatore a Radio Padania, senti. Buongiorno Tammy, Padania Libra, sono Ayman. Uè, buongiorno. Ha fatto bene, se non mi piace questo posto, vai del paese di Belf, tutti gli islamici di merda lì, vai lì. Guarda oltre i monti, non permettere al tiranno di accecarti. Vai vedere. Voglio rispondere solo a quel traditore dell'Islam, quello merdone di Ayman, che non sa neanche a parlare. Devi vergognarti. Potresti accoltellarvi tra di voi e non rompere le palle a noi, però. Accoltellatevi tra di voi e basta. Sammy Varin risponde a due ascoltatori che intervengono di origine islamica. Uno, diciamo, contro l'Islam e l'altro invece a favore dell'Islam, eccetera, dicendo accoltellatevi tra di voi. Sale il livello, sale il livello. Senti, prosegui. Sì. Stupido. Con quella faccia di merda che hai, parli male di Kienz, parli di... Sì, persone come lei vanno condannati. Ma lo faranno di sicuro, sì. Appena ci saranno i giudici marocchini e sicuramente mi condanneranno, Appena ci sarà la polizia e i concorsi li ha proprio inseriti la Kienz, appena ci saranno i concorsi con la polizia, con tutti gli immigrati senza nazionalità italiana, certo ci verranno a cercare, capito? Pagani di merda! Siete padani di merda, non esiste la padania un cazzo, esiste una nazione che si chiama Italia, e viva Kienz, viva Alfano, viva Renzi, e andate a fanculo, stronzi! Onnipotenza. No, bello questo. Migranti, chiamate tutti. Tra pochi minuti vi darò il numero di Radio Padania. Chiamiamo in massa, migranti, Radio Padania. Chiamiamo in massa, ultima idea, Farouk, Aman, tutti, chiamiamo Radio Padania e facciamogli sentire la voce. Facciamogliela sentire agli amici padani. Dunque, torno sobrio. A Roma esiste una cosa che si chiama cloaca massima. Sai sì. cos'è a Roma? Cos'è no, la cloaca massima? Che cos'è? La cloaca massima dell'antica Roma è una delle più antiche condotte fognarie. Cloaca, si chiamava cloaca Vabbè, massima. Allora fai, falla breve, su. No, dai. Perché i romani avevano ideato delle condotte fognarie. Va bene. Ecco. C'è la cloaca massima romana e c'è la cloaca massima padana, che è quello che tu hai fatto sentire proprio. Cloaca, cloaca. Beh, invece è un grande pezzo di radio. Zanzara! Io dico solo che questo programma sì. dovrebbe essere soppresso. Dentro il mio giardino ruggisce tutta la notte e dorme in un tombino. C'è l'aria. Allora, la questione è molto semplice. Abbiamo chiamato il direttore Emilio Fede, il quale quando vede un numero privato e soprattutto quando qualcuno non si presenta subito, reagisce in questo modo. Sentite, i bambini, tappate le orecchie, metteteli un attimo fuori, buttateli fuori dalla macchina, come diceva una volta quando era in lui, quando era Parenzo, cioè, no adesso, insomma. Dimmi, amore. Professore? Direttore? Pronto? Sì, sta pronto. Chi è? Chi è? È il direttore Fede? È il direttore Fede. È il direttore? È il direttore. È il direttore Fede o no? È il direttore Fede, sì. Che fa? Mi faccio una sega. Tu? Ma come? Un consiglio, eh? Dammi un consiglio. Fatela anche tu. Ma come, direttore? Così non rompi i coglioni. Carta e penna ce l'avete, amici ascoltatori? Perché? Che c'è? 0266203529. Lo diremo nei prossimi giorni in arabo, no, dillo bene, in cinese. Dillo bene. Nei prossimi giorni ci sarà un amico arabo e un gli amico ascoltatori cinese di chiamare Radio Padane. Dove arabi e cinesi. No, cinesi dovranno no, arabi chiamare e albanesi. Anche i cinesi. Albanesi. Voglio che anche i cinesi chiamino Radio Padania. Diventerà la più grande radio multietnica della storia. La più grande radio. Questo è l'obiettivo. Ecco, da qui a fine luglio, da qui al 25 luglio, fino a quando c'è la zanzara, il mio obiettivo sarà quello di far diventare Radio Padania una radio multietnica bellissima, invasa da gente che parla arabo, cinese, ucraino, rumeno, slavo. Fatelo ogni giorno, chiamatelo 0266203529, ripeto 0266203529, amici albanesi, amici soprattutto clandestini, ma l'avete sicuramente un piccolo cellulare magari rubato o prepagato. Usate l'ultima chiamata che avete per chiamare gli amici di Radio Padania, la grande iniziativa editoriale della zanzara. Chiamate Radio Padania, o migranti. C'è una zanzara tigre. Sentite ancora Sammy Varin, conduttore di Radio Padania, alle prese con Lazar, un extracomunitario forse clandestino. A Radio 24 insultano il Dio ogni giorno, no, insultano no, anche noi no, ogni giorno. No. Qui a Radio Padania no, stiamo lavorando no, onestamente, a differenza no, di qualcuno no. che ci vuole sputtanare, noi lavoriamo onestamente. Comunque io ho chiamato per un'altra cosa. Buongiorno a quel maleducato che ha insultato il Dio l'altro giorno. Oh, che palle con sto Dio. Senti, il tuo Dio te lo tieni e non rompi i coglioni, è chiaro? Non rompere i coglioni, tientelo il tuo Dio, ok? Che palle, che rottura di palle! Ognuno c'ha il suo Dio, se lo tiene e non rompe i coglioni a Radio Padania. È chiaro sto concetto? Statevene col vostro Dio. Non vogliamo essere sopraffatti da voi, ok? Fatevi i cazzi vostri. È chiaro sto fatto? Qui si parla con Radio Padania Libera. Se avete altri dei, sono cazzi vostri. Già siamo senza stipendio, così chiudiamo del tutto, va bene? Grazie a questa gente. Allora, da quest'oggi Lazar non pubblicherà più un cazzo sulla bacheca di Sammy Varin, che finora è stata pubblica. Va bene? Grazie. Grazie a te, Lazar, al tuo Dio, che rompe i coglioni, ok? Perché ognuno c'ha il suo Dio, ma nessuno rompe i coglioni come il vostro Dio. Il nostro Dio ce lo teniamo e non rompiamo le palle a nessuno, va bene? Ma che mondo è questo? Commento di Parenzo. Ah, Ripeto, amici migranti, clandestini e non, rumeni, slavi, slovacchi, extracomunitari in generale, amici rom, sicuramente avete un telefonino a disposizione. Bene, 02 66 20 3529, chiamate Radio Padania, la più grande radio multietnica del mondo, trasmissioni solo in arabo da oggi, chiamate, chiamate, chiamate. A battaglia radicale e non violenta. Zitto, zitto. A Radio Padania, amici immigranti. Quando il criminale è un immigrato, ok? Non lo scrivono più, signori, attenzione. Ma come mai? Sono degli ordini superiori. Chi fa il giornalista e al tesserino, a differenza di quelli della Zanzara, che il tesserino se lo possono buttare nel cesso, perché la loro formazione è unica, è informazione univoca, è solo contro Radio Padania. A parte il fatto che è il contrario, cioè spesso vengono citati gli immigrati come autori dei delitti e non il contrario, cioè vengono sottolineati. Ancora con un ascoltatore, senti. Mazzard, come cazzo si chiama? Se mi sente, dico, ascolta, io mi chiamo Marco, abito a Milano, vieni sotto casa mia che facciamo due paroline, pezzo di merda, continuano a minacciare qui tua moglie, tua figlia, ma che cazzo vuole sta gente? Ma chiudigli le linee, dammi retta, ma buttagli sul telefono a sta gente qua. Questo è un ascoltatore che ce l'aveva con la Zar, con l'extracomunitaria, col migrante. E chiudiamo con quest'altra perla. Ma questa gente qua che minaccia e Dio e mica Dio e la sua famiglia, guarda, ne ho appena mandato a fare in culo uno al semaforo con le ciabatte che continuava a scassarmi una minchia col cartello con scritto c'ho tre bambini, io ho tirato fuori il mio cartello con scritto anch'io c'ho tre bambini, dammi tu un euro, che cazzo vuoi? Caro amico Lazar, amico Lazar, chiama qui, amico Lazar, chiama qui alla Zanzara 800 24 00 24. Tu che hai dato battaglia, hai dato battaglia a Radio Padania. Finiamo con l'appello di Parenzo, dai. Amici immigranti che siete in Italia e che state per venire in Italia, con un telefonino a disposizione, rumeni, musulmani, croati, indiani, cinesi, chiamate 02 66 20 3529, chiamate Radio Padania, fatela diventare la più grande radio multietnica del mondo, si parlerà soltanto cinese, soltanto arabo, nessuno capirà più un cazzo, basta secessione, basta Padania, basta no euro, solo arabo, solo cinese. Che carogna che siete, vabbè. Mirko da Firenze, buonasera Mirko. Mirko? Dai, su, Danilo da Roma con sti telefoni, aggiustateli, no, mica sono quelli da 10 euro che si comprano gli immigrati, dai, Danilo. Sì, sono qui, ciao Parenzo, ciao Cruciani. Ciao. Senti, volevo intervenire spezzando una lancia a favore di Mario, no? Sulla questione delle adozioni. Certo, la questione non è facile da dire se va bene, va male, sai, ci sono opinioni differenti. Il problema è, ma questi qui, mi dai 30 secondi proprio e ti lascio, arrivano a desiderare un figlio, diciamo così, dopo aver consumato i loro bisogni, incontrano il compagno, la compagna, desiderano un figlio, lo adottano e poi si lasciano. Cioè, se poi si lasciano, ma succede la stessa cosa. Vabbè, ma ci devono essere delle regole che funzionano sia per le problemi. Ho già capito, ci sono, Danilo. Quando c'è una madre naturale, un istinto, tornando a quello che diceva l'altro, cioè lei sta dicendo se si lasciano, se i due adottanti, diciamo, no? Cioè che siano due femmine o due maschi, poi si lasciano, beh, resterà uno di quelli, si metteranno d'accordo, cioè è normale, si metteranno d'accordo, ma sì, si metteranno d'accordo, resterà una persona, poi sparisce questa unione familiare. Io ho forti dubbi che resti poi questo desiderio di avere un figlio che non è tuo, e comunque tu non sei questo, la madre che, guardi, l'ha partorito, che l'ha avuto dentro. La questione non è facile. Il rapporto. Ma certo che non è facile la questione. Nessuno dice che sia facile, però nei paesi dove questa cosa qui è stata fatta non ci sono catastrofi, non ci sono casi clamorosi. Sì, ma poi c'è non le conosciamo. Ma no, ma c'è una letteratura da una parte e dall'altra, perché ovviamente poi si prendono dei pezzetti della realtà e si fanno diventare diventare questi pezzetti della realtà qualcosa di la verità assoluta. La realtà è che le unioni gay funzionano, niente di più, niente di meno. Le unioni sono d'accordo. Ma anche le adozioni funzionano allo stesso modo, dai Danilo, alla fine funzionano allo stesso modo, quando c'è l'amore, quando c'è l'affetto, che sia maschio, che sia femmina, è lì stesso, su. Grande ritorno qui alla Zanzara alle 20:26, Enrico Montesano, buonasera, ciao Enrico. Ecco, buonasera! Amico mio, come stai? Grande laziale. Allora, grazie, oh. State a tutta birra andate, eh? Beh, pistiamo come dannati. Senti un po'. Dovete dai giù. Senti poi Enrico, io voglio dire una cosa, ma è vero che tu senti da di notte aprendo la finestra del tuo appartamento lì sulla Salaria? L'estate si sente perché si sta con le finestre aperte. Adesso non so se accade pure l'inverno, non me ne accorgo. Non te l'accorgo. Comunque, si sente una cosa comunque che abbiamo già detto lo scorso anno, da un paio d'anni. Cioè, che cos'è? Ci sono dai campi rom vengono dei miasmi. Non lo so, non lo posso giurare. Ma come no? Posso mettere la mano sul fuoco. Ma come no? L'hai detto. Se leggo anche su internet dei cittadini di Roma che denunciano questo, e si suppone che questi fumi vengano da qualche campo dove bruciano qualcosa. Ma che bruciano secondo te, Eri? Che adesso io brucio, generalmente guarda, tanto non sono i segreti di Pulcinella, bruciano i copertoni per ricavare quelle sfoglie di acciaio e si bruciano i cavi per ricavare l'oro rosso, il rame. E comunque, poi non so se si brucia qualche altra cosa, ma questo provoca diossina e questo fa male alla salute, fa venire il cancro a lungo andare. E dunque bisogna intervenire. Cioè non è razzismo dire bisogna intervenire. Ma stiamo scherzando, ma io non bisognerei mai, mica voglio essere accusato di razzismo. Io nel mio articolo che ho pubblicato ho detto tempo, che io già negli anni '80 apprezzavamo la cultura rom, i loro costumi, la loro musica. Qui si tratta di rispettare la legge. Sì. Cioè sono la legge, noi romani, vedi, abbiamo sto difetto. Qual è? Vorremmo respirare. Lo so che è una pretesa, cioè, ma come volete respirare? Ma come vi permettete? Lo so, dice, ma volete anche l'aria pulita? Sì, andiamo, non rompete le balle. Capito? Sì, allora, questo problema. Ma glielo devi dire al sindaco Marino e a tutti quelli che in questi anni hanno fatto orecchie da mercante, amico mio. Cioè, ma tu pensa, ieri mi hanno portato al Campidoglio e mi hanno detto: lo vedi, ecco Marino, ma non siamo a Roma, gli ho detto io. Molto pittoresco. Vabbè, Marino è. Cioè io il sindaco di Roma, io Marino il Campidoglio. Ci sei andato? Quando è carina questo. Ma ci sei andato o no, Eri? Dove? A Marino? No, con Marino, l'hai visto o no? Cioè, l'hai chiamato o no per questa roba qua? No, non l'ho chiamato, però se mi chiama lui io gli ho detto andiamoci a fare un giro in bicicletta, gli faccio vedere le buche, come se inciampica, come se casca, sono caduto. Vuoi andare in Vespa con me? Gli ho detto facciamoci un giro in Vespa. Ma vedi, purtroppo noi abbiamo questa pretesa. Ma non che sarebbero paghiamo le tasse perché vorremmo dei servizi. Sì. Che paghiamo le tasse perché vorremmo respirare l'aria pulita. Sì. E quindi la salute. Se uno Stato non è in grado di garantire la salute ai propri cittadini e non è in grado di garantire la sicurezza, che Stato è? Ma è comatoso. No, ma non c'è dubbio. La cosa incredibile è che se uno dice che da un campo rom bruciano, in un campo rom bruciano i copertoni, bruciano i rame, cioè dice no, razzista, non è vero, quelli là vuoi mandare questi. Ma no, ma io non ho nulla contro i rom, io dico solo, visto che si fa una giornata per la cultura rom, per l'orgoglio, eccetera, diciamo al capo villaggio. Ragazzi, non si può bruciare sta cosa perché al capo villaggio, rom, dici te, io i villaggi rom, i campi rom li chiuderei di principio, ma così. Ancora, chiuderli, storia, chiudere. Un attimo solo, pubblicità, poi torniamo con Enrico Montesano, poi lo lasciamo perché deve vedere pure noi, Inghilterra e Uruguay. Attento al DDT, sai. Allora, detto che il mio mito è diventata questa pornostar cilena, una tale Marien Doll, la quale aveva promesso: se battiamo la Spagna farò 16 ore di sesso. E poi ha mantenuto la parola, almeno per quello che si racconta lì in Cile. Su Twitter mette l'indirizzo e il numero di telefono: venite tutti da me. Dove vai? Vado a prendere la Pravda. Dalle 19 di stasera riceverà tutti quelli che vorranno farsi un giro con lei. In Cile però. Beh, in Cile, purtroppo. Tu in hai Cile. Già preso il biglietto? No, no, no. Dell'aereo? Già dopo la vittoria con l'Australia comunque aveva trombato per 12 ore pubblicando. Ti colpiscono sempre a te queste notizie. Beh, che si trovano certo. Negli interstizi delle ma quale interstizi? Ma quale interstizi dell'informazione? No, prime pagine assolute, dai. Nel mondiale succede di tutto, succede qualsiasi cosa. Che per me è roba, ambiente maiale. Grande scontro questa mattina ad Agorà tra Fini e Santanchè. Fini Santanchè. A un certo punto Fini, quasi in maniera comica, dice: io non mi candido a nulla, me lo chiedono gli elettori. Amico mio Fini, perché? Perché ci sono dei comici involontari ogni tanto. Ecco, Fini è un comico involontario. No, ma ha detto una cosa sensata. Dai, ma perché adesso? Dai, su, veramente. Non allora, quando vuoi parleremo serenamente e seriamente della cosa di Fini, no. Che è stato fuori per più di un anno e mezzo. Me lo due, chiedono forse, gli elettori. Qua... Dalla... Me lo no, chiedono ma non gli chiedono elettori. Niente. Lui organizza un'assemblea rivolta a tutti i giovani per il... con la parola d'ordine del centrodestra. Crede che ci sia un vuoto del centrodestra e organizza. Però con la sua autorevolezza Montesano, che per qualcuno. Montesano, ma che c'entra? Enrico, ma... aiutami tu su questa cosa. Ma io non è che di devo difendere Fini. Su questa non... cosa di Fini, aiutami tu, ti prego. Ma no, ma non si può, ma che fai? Fai il lavaggio, te ricicli così, insomma non se ne può più. Dai, su. Non se ne può più, basta, a casa, devono andare a casa. Allora, Fini. Ma chi? Berlusconi c'è e nessuno lo discute, ma se il centrodestra non va oltre... Va oltre Fini, non oltre Berlusconi. Io non mi candido a nulla, no, no, non sono un uomo per tutte le stagioni, non tiro calci di rigori. Io cerco soltanto di far comprendere, perché me lo chiedono, anche se dispiace alla signora, tanti elettori di centrodestra che dicono: ma vi rendete conto? Me lo chiedono tanti elettori. Qualcuno glielo chiederà. Ma quale? Storia, ma sono Fini. Numeri da prefisso telefonico. Montesano, ma la democrazia Enrico. Non è soltanto grandi numeri, la democrazia, eh. Oh, uno a un certo punto fa un percorso, no, Enrico? Uno ha fatto un passo indietro. A un certo punto, dopo sto percorso, hai fallito perché alla fine sei arrivato con lo zero virgola, punto e basta. Ma no? Io penso che bisognerebbe rinnovarla un po' tutta questa classe politica. Ripeto, questo Stato ci difende il diritto alla salute, no, questi politici che hanno fatto fino a ieri, centro, destra, sinistra, insomma. Ma tu oggi con chi stai, Henry? Ma io non so con nessuno. Un po' con Renzi, un po' con Renzi. Con una cosa nuova, cioè, guarda. Ma più a destra o più a sinistra? Un po' grillo. Ma da nessuna parte, io ti ho detto, questa è roba dell'Ottocento, dell'altro secolo, destra, sinistra, minchiate. Cioè, questi devi fra chi ruba e chi non ruba, chi paga le tasse e chi non paga le tasse, chi fa il lavoro e fa il suo lavoro e non si imbosca. Queste sono le uniche distinzioni. E oggi chi incarna questa roba qui, diciamo, quelli che pagano le tasse, quelli i in mezzo? I giovani che ancora non sono stati corrotti, almeno che c'è un po' di tempo. Per cui che è Grillo? Una classe politica nuova. Grillo, giovane. Ti piace? Beh, adesso non lo so, perché sì, abbastanza, però questa cosa che prima dice no, poi adesso dice facciamo la legge insieme. Esatto, insomma, beh, sta un po' sbandato, sta sbandando. Sta marcia avanti e marcia indietro, ma un po' depistato. Però ecco, io spero che si faccia qualcosa e arrivi qualcosa. Io quando io chiamavo... Ma per chi hai votato guardate, adesso? Chi hai votato adesso? Alle, Grillo. Alle non europee. Ci sono andato io l'ultima volta. Ma tutti, guarda, è possibile che tutti dicono non ci sono andato, non ho votato? Alle europee non no, ci sono andato. No, io stavo facendo un concerto con le musica di Trovaioli, un grande successo, ho fatto un concerto bellissimo. Beh, ma... adesso ritorno al ritorno al Sistina, pure al Sistina torni a gennaio. Sì, ma a gennaio, a gennaio con la mia commedia e prima faccio la badante a Pippo Baudo. Come fa la badante? Come fa la badante a Pippo Baudo? Sistina Story, raccontiamo un po' la storia di questo teatro, perché il Sistina c'è, Massimo Romeo Piparo mi ha chiamato e sono stato ben contento. Ma che c'entra Pippo Baudo però? No, vanno insieme questa cosa, insieme. Questo no, lui, perché lui è un amico in più che ha sempre amato il teatro, è un uomo di televisione che può fare il teatro, invece io sono un uomo di teatro che può fare la televisione. Ma senti poi, io non ho capito bene, ma i Rom secondo te rubano un po' più degli altri o no? Secondo me sì. Rubano. No. Io sono un po' d'accordo con te, perché il fatto dei campi mi sembra un concetto che abbia fallito. Cioè è come metterli in un piccolo campo di concentramento, però non è che poi, hai capito, concentrarli lì. Dovrebbero integrarsi nella nostra... Poi è un ossimoro. Capito? Sì, comunque no, ho capito, ma se non gli danno le case, hanno una tendenza, scusa, hanno una tendenza a rubare più degli altri. Ma se sei nomade, non sta fermo lì, allora. Ma non sono più nomadi. Sostanziale. E infatti non sono più nomadi. Ma sostanziale significa le case, non le baracche. Se non c'hai indirizzo, uno deve avere un indirizzo nella vita, no? Qual è il tuo indirizzo? Allora io sono d'accordo con te. Si danno, si sparpagliano bene nelle case con l'indirizzo, il numero civico e sapere che mestiere fanno. Sì. Che sono tante persone per bene nei campi nomadi, eh? Beh, sì, sì. Che mestiere fanno, secondo te? Il famoso fascio. Che mestiere fanno, secondo te? Ma Mussolini qualcosa di buono l'ha fatta, secondo te? Sicuramente le ferrovie, guarda, Roma-Nettuno. La Roma-Nettuno. Io quella la prendo sempre. È una bella linea comoda, quella l'ha fatta di sicuro. Le stazioncine sono una meraviglia di quegli architetti razionalisti. Almeno quello l'ha fatto bene. Ma, poi il resto... ma altre cose l'ha fatte bene, c'è qualcosa di positivo, che ne so. La previdenza sociale, la bonifica dell'Agropontino, poi ha fatto 2-3 fesserie, ma sono state gravissime purtroppo. Però Dio, se non ci fossero state queste fesserie. Le giraziali e la guerra, ragazzi. No, Dio, se non ci fosse state queste cose, dici. Se non ci fosse. Certo, la matrice socialista all'inizio non era male. Vabbè. Enrico, adesso non è che mi fate la camicia nera. No, faccetta nera. Aspetta, Montesano s'avvicina. Posso dire una battuta sui rom? Non è che sono razzista, hai capito? Voglio dire, però, ecco ragazzi, la salute, il diritto alla salute, per favore, alla sicurezza. Ecco, allora chi ha l'autorità, ecco, facesse un po' di polizia in più ogni tanto, qualche bel ride dentro un campo rom. Ma prova a fare in America. Negli Stati Uniti c'è un campo rom, dici te? Prova a fare come ti pare, come si fa qui in Italia, negli Stati Uniti, che non lo so, questo è il punto. Vai a trovare un campo nomade negli Stati Uniti, va un campo rom. Il punto è che questa amici miei Montesano e Cruciani, il punto è che fate questa cosa solo sui rom, ma mentre applichiamo sul falso in bilancio e su anche le cose fiscali, ma che in America questo, no, amico mio, amico mio, perché in America Madoff a 90, 80 anni finisce in galera, non è che adesso dice soltanto coi rom, pugno durissimo. In America con tutti i pugni durissimo, capito? Bisogna toglierlo questa cosa che è stato depenalizzato, perché qua ormai in galera ci vanno solo i volontari. I volontari non è male. In galera ci vanno solo i volontari. Cioè in America se non paghi una rata della macchina ti mettono il blocco, se non paghi una multa. Siamo d'accordo. Enrico, ti sento in forma però, vieni a trovare un'altra volta, ti abbraccio. Sono aggressivo, ma con voi mi diverto, grazie. Ciao. Una leccatina che non fa mai male, e risentiamoci. Ciao. Arrivederci professore. Com'è una leccatina, Enrico? Beh, con voi mi diverto, una slinguazzatina. Una slinguazzatina, ma tu sei a favore dei matrimoni gay? Ecco. Aglie, che domanda, adesso come parlo mi fotto. No, ma devi... Io sono eterosessuale, nessuno è perfetto. se un gay ci prova con te, la tua reazione qual è? No, scusa, io sono contro il matrimonio anche fra eterosessuali, figurati se sono a favore del matrimonio fra omosessuali. Uno può stare insieme benissimo, liberamente, come però diceva matrimonio Montanelli. No. Io nelle lenzuola degli altri non entro. Non amarsi è bello, ognuno può amare chi gli pare, basta che non mi nuoce, come diceva il grande economista, fisicamente né economicamente l'uomo può fare quello che vuole. Ma scusa, se uno viene accanto a te e ci prova, la tua reazione qual è? Un uomo? Magari. ciao ragazzi. Era in forma, l'ultima volta che l'abbiamo sentito non era così. Evidentemente, sai, le persone vanno pure uomo, a fasi, le persone non è mica vanno un a fasi. Computer. Oh, fermi tutti. Per commentare quello che succede dentro Cell, la scissione dell'atomo. Io sono molto duro, lo so. È con noi, il leader, chi se no? Mendola, buonasera, governatore. Buonasera. Allora, che succede dentro Cell? Iniziamo subito. Io ho detto la scissione dell'atomo, so che sono stato duro, vabbè, questa è la mia battuta. È sempre molto duro. Quest'oggi è stato un giorno difficile. Il mio mandato è a disposizione, ma il nostro partito è come un'anguilla in crisi, sempre un'anguilla. Ma che vuol dire, scusi, un'anguilla? Un'anguilla sorta di leptocefalo limoso e scivoloso che tenta di sfuggire alle sabbie mobili di un movimento schiacciato dalla predicazione velenosa dei populisti che alimentano i populisti alimentano pulsioni fascinose verso Renzi. Ma che c'entrano adesso le pulsioni fascinose verso Renzi? Ma insomma, l'hanno tradita questi qua, i suoi amici di un tempo, i vari Migliore. Usare il termine tradire non mi sembra la cosa migliore. Il nostro antropocentrismo non è uno scivolo per avvicinarci, ma scusi l'ossimoro, un'opposizione munita di assenso. Ma che vuol dire un'opposizione munita? Questo non si capisce niente. Lo dica in parole più semplici. Allora, in parole più semplici, ecco, la nostra coscienza politica esplode in maniera serpentiforme come un'anguilla del Mar dei Sargassi, equidistante dall'individualismo consumista e dal baratro di chi urta il muro della compatibilità e della mercificazione. No, non abbiamo capito ancora, Vendola. Allora, siete all'opposizione oppure insieme al governo? Questa è la cosa. Lei ha detto siamo all'opposizione. Come li giudica questi qua che sono usciti fuori? Dei traditori, della gente che sale sul carro del vincitore? Come l'ho già detto, si fa migliore, non parlo e non voglio usare assolutamente termini di questo genere. Lei ha detto che è come un figlio, per lei è un fratello. Questo è vero, è sempre stato come un figlio. Allora eviterò un vocabolario da spot, parliamo con chiarezza, smarrimento, precarizzazione subdola, speranza soffocata, la teatralizzazione di ogni dialettica stride con il nostro modus operandi. Questo periodo è come un'onda d'ammoniaca che assale nelle nostre narici. Non si riesce a fermare. La politica di oggi è una sorta di gattopardismo che ritorna in forme da moderno sulcano. Vabbè, continua a parlare. Oh, Ambrogio da Lodi, Ambrogio. Ambrogio, sì, vai, sì, vai. Mi stavo addormentando perché dopo un'ora e un quarto, senta. Il mio intervento era sui matrimoni gay. Mi candido a martire insieme a Giovanardi e a quell'altro, a essere freccettato a quell'evento di cui avete parlato. Sì, al Gay Village di Roma ci saranno due gigantografie, due sagome di Giovanardi e di Putin. Con le freccette che si tirano, zac, con le freccette foto, così mi freccettano anche a me, in quanto sono contrario ai matrimoni gay, ma mi interessa di più l'argomento collaterale. Ma che vuol dire l'argomento collaterale? Cos'è l'argomento collaterale? Chiudilo, basta, chiudilo, andiamo a casa. Dai. Glielo dico. Aspetta. Quello dello Stato laico. Non mi interessa, Emanuele da Matera, veloce, 20 secondi. 20 secondi. 20 secondi, un vaffanculo a Fini. Subito, e poi a Parenzo gli devo dire se dà per bene il numero di telefono di Radio Padano, in maniera che la mattina quando ti alzi con i coglioni alla rovescia gli dici di certo, amico mio, 0266203529. Ma perché vuole chiamare Radio Padano? Ripeto, 0266203529, migranti, chiamate Radio Padania Libera. Emanuele, io la chiamo domani, perché lei mi sa che è forte, A domani. Vaffanculo, dai, su, se ti diverte va bene. Io vuoi fare insultare, sono pronto a fare qualunque tipo di insulto ti vada. Salve. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Dica, pronto, chiaro. Radio 24. La passione si sente.